la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana in questo lunedì 12 di maggio ed è una puntata in cui per un giorno facciamo per così dire un passo accanto rispetto al flusso quotidiano di notizie economiche o politiche di cui ci occupiamo abitualmente, o la riflessione su qualche nuova tassa o su come se la passa questa o quella categoria italiana. Perché? Perché traiamo l'occasione dalla kermesse annuale del libro, la più grande delle tante che si tengono in Italia oramai sistematicamente, con festival della filosofia, della storia eccetera in tutte le grandi città italiane, ma l'appuntamento che si chiude oggi a Torino è diventato negli anni, con merito di chi lo organizza, un momento topico, un momento rituale di riflessione intorno alla industria del libro, all'impatto culturale che il libro e le imprese editoriali hanno nel dibattito pubblico del nostro paese. E in questa occasione, più che soffermarmi sugli aspetti più economici della crisi del mondo editoriale e del mondo del libro italiano, perché siamo arrivati al kermesse di quest'anno a Torino con un bilancio abbastanza spaventoso, ecco, per usare un aggettivo sicuramente non amplificato, con più 3 che 2 milioni di libri in meno venduti sull'anno precedente. Stiamo parlando di un paese in cui è noto che pubblichiamo decine di migliaia di testi, pochissimi faticano ad arrivare sopra le 2-3 mila copie di venduto, e ulteriormente passi indietro compiuti. Certo, è l'effetto della crisi, non c'è dubbio, però c'è molto da riflettere sul come mai i meccanismi di induzione alla lettura nel nostro paese fatichino molto e fatichino protraendo a questa lunga coda, malgrado che da decenni non siamo più un paese, diciamo così, dal punto di vista del tasso di analfabetismo, indietro nelle comparazioni mondiali, se non per l'analfabetismo di ritorno, che è cosa diversa ovviamente dall'aver appreso il leggere. Diciamo che noi abbiamo in questo nostro paese una difficoltà persistente, ma invece di occuparci dei numeri, per una volta andiamo alla sostanza delle cose, perché tra le cose che ho letto in questi ultimi giorni c'è una che mi è piaciuta molto e quindi ho deciso di far parlare l'autore per riflettere su che cosa davvero in profondità, in termini di libertà, di trasformazione della storia, del costume, della convinzione di ciascuno di noi stessi in se stesso, innanzitutto nella propria individualità, la storia del libro e l'importanza del libro rappresenta, e sul perché i libri siano pericolosi. Io, e finisco qua prima di presentarvi l'ospite, ho una piccola, per me indimenticabile, fotografia personale. Io devo il nulla e i molti difetti che ho nella vita e i tanti fallimenti che ho collezionato sicuramente a una cosa: io ero di famiglia poverissima, operaia, e per caso però in una delle case della famiglia materna c'era un'enorme biblioteca, dovuta al fatto che a ogni generazione la famiglia di mia madre dava o uno o due dei suoi figli a Santa Romana Chiesa, e questo fatto garantiva appunto la possibilità di studiare. Sto parlando di un'Italia dall'inizio del Novecento, quindi era molto poverissima quella della famiglia di mia madre, e che però in questo modo aveva accumulato centinaia, anzi alcune migliaia di volumi. Quei volumi erano per me da sempre, da piccolissimo, da 5 anni, quando ho imparato a leggere prima del tempo, la via di fuga da quella che mi sembrava, e sbagliavo ovviamente nei confronti di mia madre, di mio padre, ma una vita in galera nella Torino operaia poverissima in cui stavo. E quindi iniziai a leggere a metro lineare, non avendo ovviamente possibilità di capire molto quello che leggevo, queste lunghe pareti di volumi dalle costole verdi, che erano delle edizioni paoline. C'era di tutto: i naturalisti russi, tutto Turgenev, tutto Tolstoi, tutto Balzac, Hugo, Dumas, eccetera eccetera. Dopodiché, anno dopo anno, quando avevo 9-10 anni, fui attirato dalla parte segreta della biblioteca, per così dire, dove c'erano i volumi che c'erano per dovere di conoscenza, ma era meglio, per così dire, che non fossero letti, tantomeno da un ragazzino come me. E io iniziai a leggere Roger Peyrefitte, quindi i laici, gli anticattolici, Ocut, l'autore del grande PS contro Pio XII e gli ebrei che fece discutere negli anni 60. Quando mi beccarono con quei libri in mano, volarono gli schiaffi. E più questa roba sembrava voler incitare a farmi smettere, più invece mi ha incitato nella vita a continuare. Allora, siccome sono proprio convinto che i libri siano pericolosi e necessari perché pericolosi, l'autore del libro che vi invito a leggere, è uscito per Rizzoli, il titolo è I libri sono pericolosi, perciò li bruciano, e vi invito a leggerlo innanzitutto pensando ai vostri figli, se siete miei coetanei o magari un po' più giovani, ai vostri figli, per indurli a leggere, per discutere con loro di tutto quello che leggano, ma discutere con loro, avere la voglia di farlo. L'autore è Pierluigi Battista, editore rivista del Corriere della Sera, che ha scritto appunto questo libro e che accetta di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie Pierluigi Battista. Grazie a voi. Allora, come mai, nel mentre diciamo gli autorevoli colleghi dell'industria culturale si interrogano se non sia internet a far morire la carta stampata, eccetera, eccetera, tu scrivi questo saggio in cui passi in rassegna tutte le diverse forme storiche di persecuzione e di abbruciamento dei libri nella storia? Ma intanto perché la pulsione incendiaria non è stata ancora domata, ma anche nell'epoca della riproducibilità tecnica, nell'epoca dell'online, del web, dei social network e così via, i libri si bruciano in effigie. Ci sono stati dei casi in cui dei libri sono stati letteralmente bruciati con uno smartphone. Naturalmente, materialmente quel libro non è stato bruciato, ma il messaggio è che comunque è meglio un libro bruciato di un libro letto. E queste nuove tecnologie possono essere anche una salvezza, perché io voglio vedere i nuovi censori, i nuovi piromani, quelli dei roghi dei libri, quelli che mandano appunto a fuoco sia i libri che le donne, cosa che appunto è un intreccio che molto spesso si è imposto nella storia. Voglio vedere come faranno con 80 milioni di libri online della Biblioteca del Congresso, bruciarli tutti uno per uno. Però in effigie tu lo puoi fare per esempio con la censura. La censura, come è stato detto autorevolmente da George Steiner, è una specie di, è un rogo a fuoco lento, no? La censura è un rogo a fuoco lento. E poi non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, cioè noi è inutile che ci guardiamo come se fossimo, come dire, tutti post, no? Cioè che viviamo in un'epoca in cui ormai la materializzazione del libro, cioè ci proiettiamo tutti nel futuro. Noi dobbiamo pensare che molto più della metà della popolazione mondiale vive in regime in cui i libri sono ancora totalmente perseguitati, altro che schiaffoni al ragazzino che va a vedere i libri proibiti. Sono perseguitati, sono incarcerati, bruciati, uccisi i loro autori e le loro autrici, sono bruciate anche le donne che pretendono di studiare, per esempio, no? Di leggere libri. Questo è quello che accade ancora in larga parte nel mondo. E quindi diciamo l'idea di dire che noi stiamo parlando soltanto di un passato lontanissimo è una visione molto ottimistica. Ma io quello che voglio dire è che i censori hanno ragione, perché paradossalmente, naturalmente, perché i libri che loro vogliono cancellare dalla faccia della terra sono sempre pericolosi, qualunque idea o qualunque emozione veicolino, perché il libro è sempre una sfida a un monopolio, è sempre un conflitto di idee, è sempre un contrasto, è sempre un mondo nuovo che si apre, come è stato detto, un libro, anche un romanzo, non necessariamente un trattato, un romanzo mette ali alla fantasia, ti fa immaginare una vita diversa da quella che fai, ti emancipa dalle catene della tradizione. Quindi io capisco perfettamente che la pulsione censoria sia così forte e che non sia stata ancora domata. Allora, fatta questa premessa, adesso abbiamo i 60 secondi di interruzione per la circolazione stradale, torniamo subito, poi ci porremo però il problema con Pierluigi Battista. Che cosa possiamo fare noi, più o meno intellettual, giornalista di un paese occidentale, democrat, eccetera, eccetera, perché questa consapevolezza innanzitutto continua a radicarsi? Non credere che abbiamo vinto la battaglia della tolleranza, dell'informazione, della libera pubblicazione. E secondo, anche che cosa non succede di convincente a casa nostra? Sì, in Italia, perché l'intolleranza c'è anche qua. E come se c'è? Intanto strada. Il La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati dagli studi Radio 24 di Milano a parlare per un giorno non di economia, non di tasse, non di politica, o meglio sì, di una grande premessa che ha reso possibile ogni politica libera, cioè quella della libertà di lettura, di stampa, di riproduzione, di queste cose che si chiamano libri. Quindi alla fine del 400 la grande rivoluzione, almeno nel mondo occidentale, perché trova, è avvenuta in tempi diversi e con sviluppi diversi, e con noi l'autore del libro I libri sono pericolosi, perciò li bruciano, edito da Rizzoli, Pierluigi Battista, sullo sfondo le polemiche di questi ultimi giorni anche alla grande kermesse del libro di Torino. Senti Pierluigi, ma quando il ministro della cultura Franceschini si è presentato e ha detto il primo giorno inaugurazione della kermesse torinese, insomma, la televisione deve in qualche maniera dare un rimborso simbolico e fattivo al fatto che si legge meno di quello che si potrebbe e si dovrebbe nel nostro paese, secondo te aveva più ragione o più torto? Era una battuta per i titoli? Era una battuta per i titoli nella migliore delle ipotesi, una cosa del tutto insensata nella peggiore, totalmente priva di senso storico, nessuna, non c'è nulla che in qualche modo possa suffragare quella tesi se non la moda culturale, la voglia di parlare male della televisione, essere accolto nei salotti snob che dicono che la televisione è terribile, col dito innalzato. Ecco, questo credo che sia la motivazione, una motivazione di accettazione sociale nei salotti, non una motivazione... oggi l'editoria è molto in crisi, ma è stata invece molto fiorente nell'epoca in cui la televisione è stata molto fiorente. Esattamente. No? La televisione è uccisa i libri. Ma io ti ho fatto questa domanda, sono molto d'accordo con la tua risposta, un po' perché ho questa impressione. Diciamo, dopo la lunghissima, pluridecennale egemonia culturale della sinistra nella storia della Prima Repubblica, eccetera, eccetera, è come se da questi 20 anni ci fosse una singolarità, cioè la politica da una parte si atteggia ad amica della cultura, dei libri, eccetera, eccetera, dall'altra, soprattutto in alcuni schieramenti politici, magari di colore diverso, può avvenire a destra come a sinistra, come con Grillo e così via. Il problema è che le verità radicali di cui nella guerra tribale italiana ciascuno si sente portatore, improvvisamente, quasi sempre il capo partito poi inizia a trattare chi scrive tesi diverse, con libri, giornali eccetera, inizia a puntarlo come fanno un po' i grillini con la scomunica quotidiana, però non è una loro prerogativa, secondo me è diventata un po' una caratteristica della vita italiana. È così o non è così secondo te? Ma io penso che i libri debbano essere un settore, quello della cultura, dell'editoria, che non deve, meno rapporti ha con la politica meglio è. Noi purtroppo abbiamo il mincul pop, perché questa cosa c'è stata imposta come nuova, diciamo, frontiera, no? Lo stato culturale, l'età culturale di cui parlava Marco Moralì, in cui la cultura viene vista come consenso, politica del consenso, come elargizione di denaro pubblico, come sovvenzione, e più gente dipende dalla politica, più la politica diventa arrogante, e poi non dobbiamo lamentare se poi la politica ha un peso eccessivo. La politica ha un peso eccessivo perché, come diceva un autore a lei molto caro, Friedrich von Hayek, chi controlla i mezzi controlla anche i fini. Sì. Però voglio dire, persino nella Francia, che ha dato poi i natali, la culla, lo sviluppo, insomma, un po' discutibile con alcune parti della sua storia successiva, all'illuminismo, alla tolleranza e così via, proprio oggi sul Corriere della Sera, Pierluigi, scrivevi che quando si tratta della nomina di un intellettuale liberale, insomma non troppo allineato alle correnti prevalenti nella politica, nel dibattito culturale francese, come Alain Finkielkraut, ecco che poi c'è l'insurrezione, quindi l'intolleranza c'è ancora, e come? Beh, ci è parecchio. Contestare quella nomina d'accademico di Francia di Alain Finkielkraut è assolutamente pazzesco, così come, devo dire, c'è un altro episodio che ho menzionato e che mi ha fatto molta impressione, che naturalmente non ha suscitato la benché minima reazione tra i custodi, i sacerdoti del politicamente corretto, il fatto che una donna come Ayaan Hirsi Ali, che ha scritto un meraviglioso libro e si intitola in italiano Infedele, una donna somala che è uscita dalla prigione, diciamo così, del fondamentalismo islamico, che ha subito mutilazioni genitali, che è scappata in Olanda, che ha scritto insieme a Theo Van Gogh la sceneggiatura di un film che non è stato mai visto da nessuno perché è stato censurato dagli estremisti, il cui regista Theo Van Gogh è stato ucciso con coltellate rituali da un gruppo sulle strade di Rotterdam. Questa donna che scappa, fa una vita blindata, scappa da ogni dove perché viene inseguita dagli assassini che vogliono ucciderla in quanto infedele e apostata. L'Università di Boston propone una laurea honoris causa, diciamo, e invece c'è l'insurrezione dei professori e dei parrucconi che dicono, che protestano perché questa donna fomenterebbe le guerre di religione e quindi non dovrebbe essere insignita di una laurea honoris causa. Anche questo è una forma di intimidazione, di censura e di rogo, no? Allora, il problema è che qui tocchi nel libro, nel tuo libro, i libri sono pericolosi, perciò il libro russo, sono uno dei punti più delicati della nostra, diciamo, modernità apparentemente pluriculturale dell'Europa occidentale, cioè nei confronti dei più dei paesi che citi nel mondo in cui c'è un regime durissimo di controllo, di censura, eccetera, eccetera. In molti di quelli, in alcuni casi si tratta di nazionalismo, ma in molti di quelli è l'intolleranza religiosa e soprattutto delle correnti estreme islamiste che connota questa faccenda. Una persistenza che in realtà rende le opinioni pubbliche, ma insomma gli intellettuali, come ricordavi adesso nel caso di Ilsan Ali, occidentali un po' sprovvisti di armi, perché sembra che abbiano ragione in quanto c'è una lunga colpa storica del colonialismo, dell'occidente, del capitalismo e così via. Fatto sta che secondo me su quello noi non facciamo, non dico abbastanza, ma non facciamo quasi niente. Ma io non solo non facciamo quasi niente, ma noi dobbiamo ricordare, io ho cercato di raccontarlo in questo libro, che gli intellettuali hanno sempre fatto da coro osannante nei confronti di chi ha bruciato i libri. Ma questo noi non dobbiamo dimenticare che tantissimi intellettuali tedeschi, ma non solo tedeschi, fecero proprio inni, intonarono inni a Hitler, che era stato, diciamo, il protagonista, l'ispiratore del grande rogo dei libri di Berlino del maggio del 1933. Però mentre poi dirlo prima del nazismo e del fascismo e poi anche decenni dopo del comunismo, ce n'è voluto molto di più, e delle sue vittime culturali, è, diciamo, diventato politicamente corretto dirlo dell'islamismo tabù, perché quello dice come no, ma poverino. Ma è stato detto dopo decenni, perché io ricordo ancora, io ho l'età giusta per ricordarmi l'esaltazione della rivoluzione culturale cinese, che è stato il più grande rogo di libri della storia dell'umanità. Milioni e milioni di libri bruciati, insegnanti umiliati con i cappelli, con le orecchie dati, no? Con il cartello "sono un nemico del popolo". Pol Pot uccideva le persone, gli uomini, uccideva parecchia gente, uccideva quelli con gli occhiali, perché quelli con gli occhiali potevano leggere, perché lui sapeva. E Pol Pot quelle cose le aveva imparate andando alla Sorbona a Parigi, sedendosi nei caffè il meglio del meglio dell'intellettualità a Parigi. Quindi noi non stiamo parlando di domanda stupida, ma ai giovani italiani si fa abbastanza perché capiscano che è ancora una battaglia apertissima nel mondo questa? No, i giovani italiani hanno una visione distorta delle cose. I giovani italiani non sanno chi è Azzarnafisi. Posso dire chi è Azzarnafisi? Certo. Che magari non l'hanno letta. È certo. L'autrice di un libro splendido che consiglio, uscito in Italia da Adelphi, che si chiama "Leggere Lolita a Teheran". Uh-huh. Ed è la storia di questa professoressa iraniana insieme alle sue migliori studentesse, che naturalmente sono perseguitate in quanto donne, in quanto intellettuali. Loro si vedono nelle case di una di loro, naturalmente entrano in casa con il chador in testa, coprendosi tutto quello che devono coprire. Appena arrivano a casa, innanzitutto si mettono lo smalto, le unghie, il rossetto, si truccano, si vestono con una foggia di vestiti non consentita dai guardiani della fede, e si mettono a leggere i libri proibiti insieme. Lolita, ma non soltanto Lolita, una forma di resistenza culturale che a me ha commosso. Come no. Certo, non ha avuto bisogno delle grandi autorità e così via. Quelle donne anche con questi gesti simbolici in cui viene sfidato tutto ciò che è proibito, a cominciare dal truccarsi, a cominciare dal Zuccarsi, leggono questi libri come forma, come ultima trincea di libertà. A me questi sono, mi piacerebbe che giovani italiani magari nelle scuole, e io concludo sposando questo appello di Pierluigi Battista, oltre a dirvi leggete tutti il suo libro, i libri sono pericolosi perciò li bruciano, però a Zarnafisi leggere Lolita a Teheran io lo vorrei più letto nella scuola italiana, con un bel dibattito su cosa hanno fatto gli intellettuali italiani proni a Khomeini, questa è la mara verità. Comunque continuate su Radio 24, grazie per Luigi Battista, appuntamento con me a domani.